In vista dell'8 marzo anche il teatro fa la sua parte, c'è una rassegna intitolata Tre passi di donna al Teatro Furio Camillo dal 2 al 5 di marzo. Ne parliamo con Roberta Castelluzzo, ben ritrovata su queste frequenze, Roberta. Ciao, ciao a tutti. Dici un po' di questa rassegna. La rassegna è una dedica al mondo femminile, una rassegna che ormai facciamo da diversi anni. Ci piace moltissimo fermarci a un certo punto dell'anno e parlare un po' delle donne da vari punti di vista, e questa volta sarà una rassegna un po' più particolare del solito, perché oltre a spettacoli teatrali abbiamo anche un bel momento di cabaret iniziale, molto divertente, un cabaret di circo teatro, decisamente qualcosa di un po' differente per parlare del mondo femminile, e una bella mostra fotografica insieme al CSF Adams, quindi un po' un misto teatro ma anche tanto altro. Senti, la scelta degli spettacoli quali sono e come li avete scelti? Guarda, lo spettacolo in qualche modo, il primo che abbiamo scelto è stato Gaia di Martina Giuliani, che è un po' lo spettacolo che ci racconta di più, perché è uno spettacolo dove c'è un lavoro sia teatrale che di acrobatica aerea, e Martina è una acrobata aerea meravigliosa, ma è una bravissima attrice, e racconta una storia di una donna purtroppo uccisa dalla furia possessiva del suo ragazzo, ed è un modo particolare per raccontare, perché racconta con il corpo e non solo con la parola. E questo è stato il primo amore, il primo spettacolo di cui ci siamo innamorati quest'anno. E dopodiché, per rappresentare la danza, perché abbiamo sempre voglia di lavorare con generi diversi, certamente Valentina Versino è stato il primo nome che ci è venuto in mente, perché oltre ad essere una grande danzatrice è anche una donna che non si stanca mai di ricercare, di studiare, quindi ci piaceva rappresentare la danza con lei. E il lavoro invece ospite, che viene da una compagnia di fuori, è quello di Marina Romondia, che porta un bel lavoro, bello intenso, su una storia di una donna la cui vita è stata segnata dalla dipendenza del gioco. È un tema purtroppo molto attuale, a volte parlando della dipendenza del gioco ci vengono in mente uomini come primo pensiero, invece purtroppo non è così, è un tema attuale, è una storia molto importante da raccontare, ci piaceva ospitarla. Beh, se c'è qualcosa di adatto al radioteatro chiaramente segnalacelo. Ma diciamo, forse esclusa la danza, per il resto è tutto adatto, tutto, al radioteatro. Perfetto. Allora pensaci tu, aiutaci tu. Va bene, noi comunque ti aspettiamo. Ok, allora ricordiamo gli appuntamenti e tutti i riferimenti web? Sì, allora sicuramente sul sito del Teatro Furio Camillo, quindi teatrofuriocamillo.it, si può trovare tutta la rassegna. Noi comunque dal 2 marzo fino al 5 marzo siamo tutti i giorni in teatro, dal giovedì, venerdì e sabato siamo alle 21, mentre invece la domenica, quindi Martina Giuliani con il suo spettacolo Gaia, sarà alle 18. Il giovedì, questo appuntamento appunto particolare che ti dicevo, che è con il cabaret del Calderone artistico burlesco anarchico rigorosamente eclettico, titolo lungo, impegnativo, ma che la dice lunga, è un appuntamento importante del giovedì, e vi aspettiamo con un cabaret tutto al femminile di circo teatro particolarissimo alle 21, ma diciamo che anche alle 21:30, perché abbiamo un aperitivo un po' lungo di accoglienza. E quindi dal 2 al 5 marzo Teatro Furio Camillo, siamo lì vicino alla metro Furio Camillo, anche facile da raggiungere. Roberta, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, in bocca al lupo, crepi, ciao. Crepi, un abbraccio a voi, grazie. Ciao.